Non va che c'è, sta. Va che c'è. Passaggio dalla carrozzina al letto e viceversa, dalla carrozzina al water, ok? E in realtà i passaggi posturali consistono proprio nello sviluppo, nel recupero di alcune competenze che prevedono il raggiungimento e il mantenimento di alcune posture. E qual è l'obiettivo di ragionare secondo questa ottica? Quello di stimolare e facilitare delle competenze motorie di base che risultano essere propedeutiche per attività motorie più complesse. Per complesse si intende la deambulazione, il salto e la corsa. Ok? Perfetto. Il vantaggio di utilizzare una procedura terapeutica che abbia una progressione piramidale, cioè ovvero competenze di base e competenze apicali, è quello innanzitutto di avere una valutazione costante delle attività che possono essere svolte dal paziente, ma soprattutto è quello di attuare determinate competenze nel carico gravitazionale adatto al paziente in quel determinato contesto storico e terapeutico. Okay? Facciamo l'esempio del paziente con spasticità che nell'effettuare determinati esercizi in posizione supina mostrava una risposta abnorme o comunque una radiazione patologica, mettendolo in decubito laterale, questa reazione patologica non si innescava e pertanto avevamo intuito, aveva intuito che ridurre il carico gravitazionale in un paziente con una reazione abnorme allo stiramento può rappresentare un vantaggio per il terapista e un vantaggio per il paziente stesso. Ok? Sì. Perfetto. Avevamo visto, no? Mi sembra che l'avevi proprio detto tu. Darci. Solitamente è così, no? Sempre io. Ok. E questa non è assolutamente una cosa da poco, per metterlo a termine, perché in realtà questo ragionamento è quello che viene solitamente fatto dagli ortopedici nel momento in cui prescrivono ad un paziente di incrementare il carico in modo progressivo, ok? Soprattutto dopo gli interventi chirurgici, protesi o soprattutto fratture. Questo accadrà sovente nel momento in cui andrete a trattare pazienti geriatrici che hanno problemi di questo tipo. Dovete incrementare il carico. Come fate? Non potete sicuramente farlo passare dalla posizione supina alla stazione retta, ma potrete fare un lavoro propedeutico già a partire dal lettino, modificando continuamente le posture, modificando continuamente le posizioni. Effettuare l'esercizio del ponte con l'appoggio di due gambe significa avere una percentuale di carico ben definita sugli arti. Effettuare l'esercizio del ponte su un atto solo significa avere un'altra percentuale di carico, quindi in realtà voi già state attuando un lavoro con un carico progressivo senza verticalizzare il paziente, quindi senza stressarlo sia dal punto di vista meccanico, osseo articolare che muscolare. Va bene? Cioè devo caricare il 60%, io posso anche far fare un ponte su una gamba sola. In realtà non stresso l'articolazione, ma quel lavoro muscolare sicuramente è valido. Ok? Bene. Per seguire questa progressione piramidale bisogna ridurre la fase di appoggio e alzare l'altezza del baricentro. Queste due cose contemporaneamente aumentano le capacità motorie. Ora, la progressione può avvenire nei tre diversi decubiti, cioè ovvero in posizione prona, in posizione supina e in decubito laterale. Ogni posizione avrà un carico gravitazionale particolare per alcuni muscoli, in base alla funzione del muscolo stesso, giusto? Piccola parentesi, parlavo con il dottor Morone che giustamente e in modo lungimirante vi ha ripetuto il test di forza, l'MRC, ok? Vi ho fatto vedere, no? La scala di valenza da 0 a 5. Perfetto, che cosa vi ha detto? Di gradi 0 senza completa di contrazione, che almeno c'è cioè un accenno di contrazione, un accenno di movimento, movimento contro gravità, movimento. Ok, fermati sul movimento contro gravità. Se tu vai a testare un bicipite e lo testi in posizione supina, lo testi contro gravità, gravità neutra o a favore di gravità? Fino a questo punto è contro gravità, fino al 90, poi da 90 e poi a favore di gravità. Poi chi altro? Secondo te l'anno cambia il vettore di forza, perché è un movimento angolare, però è un movimento angolare, no. Poi? Sì, il back, va bene. Non è quella la risposta, secondo me. Non ho capito la domanda. Allora, l'obiettivo non ci sono spiegato bene. Se io effettuo un test muscolare sul bicipite in posizione supina, chiedo al paziente che è appoggiato sul lettino di piegare il gomito, ok? Se il paziente riesce a piegare il gomito, secondo voi ho effettuato realmente un test muscolare contro gravità? No. Oh, assolutamente. Assolutamente no, dovete dire. Assolutamente no. Eh? Perfetto. Fermi. Non è il movimento comunque. Allora, innanzitutto dovreste discriminare. Non è un movimento. Bravo, bicchierai. Allora, i piedi con la pressione. Ecco, no, vedi, a furia di incollarsi le tiglie. Se tu fai questo movimento, che cosa significa? Che il bicipite fa un'attività contro gravità fino a quanto? Cioè, sei sempre contro gravità, ok? In realtà sei contro gravità sempre per un altro motivo che adesso ti spiego. Allora, innanzitutto devi discriminare la funzione muscolare da monoarticolare a biarticolare. Se io piego il gomito, tenendo il gomito appoggiato sul lettino, nel momento in cui ho un deficit di forza, sì, è monoarticolare, lui guarda la lampadina che si accende, è monoarticolare, sì, è monoarticolare, ma in realtà talvolta succede che io spingo il gomito sul lettino, quindi in realtà, sì, piego il gomito, ma sto effettuando un'azione sinergica con il tricipite che si muove in biarticolarità come estensore di spalla. Giusto? Ok, sì. È così quando mi metto prono e cerco di piegare il ginocchio. Sto utilizzando l'ischio o sto utilizzando i flessori d'anca? In realtà tutte queste particolarità all'interno di una valutazione della forza non vengono prese in considerazione. Quindi il dottor Morone ha detto: Marco, queste cose poi fagliele vedere tu. E ho detto: beh, volentieri, ok? Ma in realtà più che vederle dovremmo proprio pensarci a priori, cioè nel senso quando ci dicono sì F2, F3 del bicipite, noi dovremmo chiedere: ma come l'hai valutato? Perché se tu hai F2, F3 del bicipite e me l'hai valutato da supino, è una cosa. Se tu me l'hai valutato in decubio laterale, è un'altra cosa. Se tu me l'hai valutato da seduto, è un'altra cosa ancora. Ok? Se tu mi hai valutato il bicipite da prono, è ancora un'altra cosa. E vediamo quando poi si esprimono questi numeri proprio così, non dovrebbe pensare che sono... Allora, per convenzione i test di forza vengono effettuati sempre da sdraiato, perché il paziente, essendo paziente, si deve sdraiare sul lettino. Capito? Io non ti posso valutare così. No, certo. Quindi per convenzione si effettua in posizione supina, però in realtà voi dovete sapere che la gravità che grava su un singolo muscolo e sulla sua funzione varia da decubito a decubito. Ok? Che sembra una cosa banale, come in questo momento diminuisce coccia, però in realtà talvolta non c'è. Questo genere come lo posso fare? Faccio un test di forza sul Ah, quello lo vedremo. Tendo la mano sotto. Dovrai solo aspettare un po', no, poi lo vedremo. Immaginavo magari che sperando si spinge, metto la mano sotto. No, un'altra puntata, coccia. Ah, ok. Bene, ci vedete? Ok, allora facciamo una cosa, ci prendiamo un lettino, lo mettiamo avanti. Adesso Riffice e Bicchi e Rai vi faranno vedere, dai, secondo loro come potrebbe avvenire una progressione. Dovete tenere sempre in mente quello schemino di prima: riduzione della base del foggio, aumento dell'altezza del baricentro. Vai, facciamo la adesso la andiamo da pronta. Questa è la progressione da prono. Fino alla parte d'appoggio minima, praticamente. Dico da prono e sul lettino. Devo arrivare in teoria fino alla parte d'appoggio minima. Base d'appoggio minima. Alzando il più possibile il baricentro. Alzando il più possibile, esatto, bravo. Allora. Ok. Perfetto. Sicuramente è un po' troppo rapida come progressione. Vi ho lasciato scoperta la base. Perché in realtà talvolta potreste incontrare dei pazienti anziani, magari con delle lesioni cerebellari, magari appena acute, insomma acute, che sicuramente non riescono a fare quello che lei ha fatto in questo momento. Quindi in realtà la progressione deve seguire quegli schemi. Quindi massima base d'appoggio. Ok, poi che fai? La riduci adducendo e poi scagli. Perfetto, benissimo. Poi, step successivo. Che cosa si fa? Va bene. Ma poi allarghi a base d'appoggio dietro. Mi ha fatto l'arte. Già li hai addotti, perché questo è già uno step successivo a quello di base. Quindi in realtà lui la posizione è già la mattina. E poi sta chiudendo. È super. A che cosa bisogna servire? Escludendo l'apertura. Sì, sicuramente. Sì, giù. Allora. Allora, secondo te, sì. Se tu vuoi fare un lavoro sul carico di una spalla, potresti utilizzare questa progressione, perché ti dice l'ortopedico, questa povera signora anziana si è operata la spalla. All'inizio devi evitare tutti gli esercizi in catena cinetica aperta, devi fare solo quelli in catena cinetica chiusa, o viceversa. Hai terminato di fare gli esercizi in catena cinetica aperta, ti servono quelli in catena cinetica chiusa. Quindi ti potrebbe essere utile utilizzare, sfruttare questa progressione? Penso di sì, perché così cioè, il peso che mette è ancora minimo. Il peso che mette è ancora meno, però ce lo mette. Sì, però ce lo mette. No, tu hai la spalla destra a cui devi aumentare il carico, quindi che cosa fai? Ti chiedo se magari stacchi un braccio. O di spalla. Vai, sì, c'è la prendi la base. Ok. Posso giocare pure sugli altri inferiori. Base d'appoggio ampia. Ok. Trovo il tuo appoggio. Così già. Allora, vediamo l'efice che la fisioterapista che cosa ti fa fare. Per mettere il carico sulla spalla destra? Sì, vabbè, torna. Vabbè, poi c'è la vera posizione di questo tipo, poi posso prima chiedere di ridurre, poi di mettere, e poi di alzare il braccio sinistro. Staccare il braccio sinistro, guardate così. La cinetica aperta dove? No, la spalla destra. È solo la spalla destra. Però, se adesso ci penso che il proprio obiettivo, nel caso di una paziente anziana, il carico comunque è rilevante anche con due braccia. Cioè, il carico è rilevante. Si potrebbe cercare una posizione. Potrebbe cercare una posizione con il carico è minore, cioè confine passare da allora a direttamente questa. Allora. Perché c'è comunque tutto il corpo che tirano. Abbastanza. Ma la domanda è interessante, perché in realtà ti permette di sfruttare ancora di più questi principi della progressione. Cioè nel senso, utilizzare la progressione nasce proprio dall'esigenza di avere questi carichi ridotti, ok? Intermedi, base, ok. Allora, in realtà conoscendo la progressione di altre piramidi, tu puoi anche fornire un carico differente sulla spalla cambiando la posizione. Cioè ad esempio, invece di dare tutto questo carico che per te sembra esagerato, anche se comunque io avendo l'avambraccio appoggiato e la mano appoggiata sto distribuendo il peso su una superficie molto più ampia. Solitamente quello che si vede fare quando si inizia a dare un carico all'arto superiore è la posizione. Quadrupedica c'è ancora più tronco, no? Si inizia a dare un carico all'arto superiore. Se posizione laterale è una prima rotazione. No, no, decubito laterale è peggio perché lavori, sì, lavori in carico e lavori in ABD, la BD non ci piace. No, pensavo a una forma di rotazione. Eccola, guarda là, la posizione seduta, perché il carico del tronco grava tutto sull'appoggio ischiavo, no? Sulla colonna, sull'appoggio ischiavo. E poi ti puoi gestire lo spostamento tra destra e sinistra. Se il gomito funziona, insomma, ok? Però tenete presente che comunque quel carico che voi state andando a somministrare è ben distribuito sull'avambraccio e anche sulla mano. Poi solo dopo aver stabilizzato la spalla con il doppio appoggio, cioè nel senso che dite mantieniti dritto, tieniti su, solo dopo che fa questo iniziate a staccare anche l'altro braccio, va bene? Intanto la raggiunge la posizione, gliela stabilizzate e successivamente aumentate il carico, quindi fate spostare l'altro braccio. Bene? Vai, andiamo avanti. Settolini, tutto chiaro? Sì. Poi? quindi aspetta, devo ulteriormente sì, aspetta, ti do l'aiuto. Questa posizione non mi piace. Non vuole riflettere sulla prima cosa. Vabbè, fermiamoci un attimo. Ma il tuo è... Cioè, non è il minore che hanno così. No. Rispetto a questo. Ma sì, su che cosa? Cioè, no, in genere... No, no, aumenta. Aumenta perché non c'è più il tronco appoggiato. Allora, comunque, lo sforzo che faccio è maggiore. Allora, lo sforzo che mi fa è maggiore, perché tu stai riducendo la base di appoggio e stai alzando il baricentro. Quindi scarico. Più vai in alto, più sì. È difficile, no? No, però io sono più difficoltà a fare quella che quella. Ora, allora, più difficoltà a fare che cosa? Sopra. Tra queste due. Ah, sicuramente dipende dal tipo di problema del paziente, cioè se hai un problema sulla spalla avrai più difficoltà a fare una cosa, se hai un problema sull'arco inferiore è un'altra cosa. Forse vanno insieme, sono nello stesso gruppo alla fine. Sicuramente nella stessa fascia, però vabbè, la differenza è talmente minima, facilmente comprensibile. Ok, andiamo avanti, ti do l'aiuto. Quindi in realtà, quando voi in modo lungimirante mettete un paziente in posizione quadrupedica, togliendolo da quella supina, lo metto in quadrupede, in realtà avete saltato tutte queste fasi, ok? Cioè abbiamo saltato tutte queste fasi. Sì. Però questo ci dimostra che in realtà noi possiamo veramente frammentare il carico, la percentuale di carico come vogliamo, Poi chiaramente in ogni fascia di competenza possiamo aggiungere palla, tavolino, tavoletta, rullo e quant'altro. Sì, in teoria andando verso l'alveo della piramide il carico aumenta, no? Il carico aumenta sulle basi d'appoggio. In questa posizione così, sì. Il peso del tronco che si bilancia in avanti, aggravare tantissimo gli arti superiori. Cioè, in questo modo io sono molto più stabile con il mio carico. No, non puoi stare con il mio carico. Perché innanzitutto tu pesi sempre allo stesso modo, però la distribuzione del peso... Il peso del tronco e del capo che mi dava in avanti, però... Cioè, in questo modo io sono più vicino in avanti, per esempio, proprio oggi. La mantengo con molta difficoltà. Però cambio... Non cambi né base d'appoggio né altezza, quasi solo la concentrazione del carico. Mentre in quadrupedica, allora un paziente biparetico con un braccio paretico, secondo voi come sarà sbilanciato? Indietro, non ci mette il peso avanti. Backload dice come bambini, perché in realtà questa è la progressione che viene presa proprio dallo sviluppo neonatale, diciamo. Neonatale forse eccessivo. Come si dice? Nemmeno. Neuromotorio ci mettiamo. Bene, poi qua. L'avevo preso la prof. Benissimo, andare a posto voi. Sì, perché me l'ero dimenticato. Pettolini. Perché ne mi sono lì? Pettolini. Ah, ecco. E Bianchini. Bianchini. Ti ha ripreso, vedi? Guarda. Se la pensa registratore, la prima vista. Se tu hai, non ce l'ha. Certo, devo andare anche adesso. Dai. Vabbè. Lo fate per voi. No, pensavo che non ci fosse. Non dovrei. Beh, facciamo... La professione è Sabina. No, ma se non è possibile dire... C'è la Juve, perfetto. Questa sarebbe 4 di spalle. Lo riduciamo, riduciamo e poi... Poi... Ok, perfetto. Ora, questa piramide prevede, perché voi a questo punto che cosa avreste fatto? Come progressione? Bravo. Avreste fatto il ponte, vero? Sì. Porto. Giusto? Io hanno soltanto due minuti di passare. Però in realtà lei che cosa, cioè questa piramide suggerisce la flessione bilaterale delle anche. Non c'ho più appoggio dei piedi. No, però continuare a lavorare scarico. Togli un minimo appoggio dei piedi, però lasci tutta la schiena. Bravissimo. Togli l'appoggio dei piedi. Togli un piccolo appoggio dei piedi. Allora il genio lì giù ha detto sì, la ringrazio. Prego. Ha detto togliamo delle basi di appoggio minime che sono i piedi, però conserviamo il bacino e il tronco, che è sicuramente più importante. Quindi teoricamente la progressione dovrebbe prevedere la flessione bilaterale delle anche. Ok? Sì. Bene. E qualora è possibile, perché poi magari dipende dal deficit che ha il paziente e anche dalla protesi che ha, quindi insomma bisogna stare attenti, però teoricamente la progressione prevede questo. Poi successivamente che cosa succede? Dobbiamo andare veloci perché dobbiamo fare altre cose. Iniziamo a staccare un pezzo di tronco, quindi andiamo in appoggio sui gomiti. Giù le gambe, andiamo in appoggio sui gomiti. Poi, perfetto. E poi perfetto. Ok, ancora una volta, invece di staccare il bacino, abbiamo staccato i piedi. Beh. Tutto chiaro? Cos'è l'egiziano? Cos'è una classificazione della disabilità? Personale mia, F4. Mi viene da dire anche un'altra cosa, però evito. No, si sì, fa. Poi, via. Bene. E poi alziamo le braccia. Vediamo. Guarda però che base d'appoggio ti sta spiegando, ti sta spiegando, vedi? Bisogna di un po' di riabilitazione. Bisogna un po' di riabilitazione. E poi stacchiamo una gamba. Ok, perfetto. Bene. Poi? Ciao. Vabbè, basta. Sarà il paziente via. Esatto, sì. Una delle cose più complicate in realtà è staccare il bacino. Infatti, se la fa una del genere, circola. Sì. Quando arriva sul proprio. Sì. Però io, cioè tu mi permetti di fartelo vedere lo stesso, no? No, cioè, no, ma scusa, nel senso, però... Cioè, oggi sono dei settantenni che anagraficamente sono anziani, ma queste cose le fanno, Okay. Comunque, come diceva giustamente Reti, cioè, il bacino si stacca proprio alla fine, perché in realtà per staccare il bacino, quindi estendere le anche, c'è bisogno di un'azione particolare, che è l'appannaggio di quali muscoli? Ok, in questa progressione i muscoli maggiormente interessati sono gli isquiodurali, ok? Quindi se voi volete lavorare bene su questo gruppo muscolare dovete fare questo. E soprattutto dovrete avere degli accorgimenti, cioè dovreste essere un po' furbi, così come quando fate la valutazione muscolare della forza. Perché in realtà nel momento in cui andate a fare il ponte con l'appoggio bilaterale non sapete se realmente quel paziente sta caricando meno in modo simmetrico, giusto? Sì. Beh, quindi vada giù e Tolini, adesso Bianchini, che poi proprio lo stesso Tolini e Bianchini, adesso Bianchini ci fa vedere che cosa farebbe lei per capire se realmente il paziente carica o meno su quell'arco. Durante il ponte. Fai il ponte e guidate a me. Ok. Vado a dare delle destabilizzazioni. E come fai a capire se carico o meno con delle destabilizzazioni? Sì, sì, sì. Girati, guarda, mettiti di là così ti vedono gli altri, ti vedono ancora un po'. Vai, lo puoi fare. Guarda come appoggia i piedi. E Tolini, adesso togli, senza staccare il piede, togli il carico dal piede sinistro. Okay. Bravo. Sta caricando a sinistra? No. Sta caricando di meno, giusto? Vabbè, il bacino adesso lo sappiamo, ma tu che cosa potresti fare? Il bacino che ruotato. Il bacino che è ruotato può essere sicuramente un segno positivo. Però devi avere la prova. Ma se li mettiamo 30-40 con i piedi? 30-40 con i piedi? Bilanci. Vai, assunto. Dimmi... Si fa staccare direttamente un atto. Ok, si può far staccare direttamente un atto, quindi hai sicuramente la possibilità di capire se il paziente carica, altrimenti che cosa fai? Prendi la caviglia e la porti verso il basso, gli dici non farti portare giù la gamba, prova, è l'altra che sta. Verso il basso, no, forse verso la Allora, cosa succede? Il paziente alza il sedere, ha una protesi d'anca, voi dovete aumentare il carico sull'anca sinistra, vi fa il ponte e voi dite, ah beh, vedi, carica però lì, ce l'ha la forza. In realtà poi dopo andate a dire al paziente non farti tirare giù il piede. Il piede viene giù, quindi in realtà lì non stava caricando, ok? Poi, che altro può fare? Può mantenere il ginocchio piegato, però guardate qual è la reazione di solito, è quella di deflettere l'anca. Quindi il vostro compenso sarà sempre questo. Cioè, quando trovate un ginocchio piegato, che si mantiene piegato, il compenso di solito sta qui. Con il se avesse caricato non riusciva a staccare, portare avanti la gamba, questo. Esatto, sì. Guarda, solleva il bacino, stacca la gamba destra. Adesso che ha necessariamente bisogno del carico, il piede non va giù. Non può compensare con flessibilità, altrimenti cade. Capito? Bene. Quindi in realtà a quella progressione, soprattutto in appoggio bilaterale, dovete aggiungere questo. Quando andate in appoggio monolaterale, chiedete sempre, cioè date sempre una spinta all'estensione del ginocchio, ok? Per aumentare la contrazione. Siete in catena cinetica chiusa e utilizzate dal flessore lungo dell'alluce, o comunque dovreste pensare al flessore lungo dell'alluce fino al gluteo, passando per i flessori plantari, tibiale, obliteo, iscroculari, medio gluteo, va bene? Perfetto. Poi, la progressione è finita? Bene. Cambiamo paziente, ce la vista allora. Vai, due scegliete voi. Pongenti. Poi piano piano farei ad esempio allargo la fase di appoggio e fase di quindi abbiamo la ripina, sposto ad esempio la posizione destra lungo il tronco, insomma il tronco, e questo è già una diminuzione, però il braccio è lato esteso, però è anche bravo effettivamente da flessione di braccio. Rispetto all'estensione di braccio può cambiare qualcosa, soprattutto se il braccio ce l'ha in questo modo e il lettino arriva qui e lui si aggrappa. Ok, questa è una cosa che dovete sempre evitare, che il paziente si aggrappi. Lo cambia leva. Poi che fa? Stende le gambe, quindi stende le gambe. Io avrei una si sensi. No, le puoi stendere poi tutte e due, sì. Però deve essere allineato. Che se stendi le gambe è quello di concentrare il peso solo su questa parte. Perfetto. Poi elevazione di un braccio. Ok. E di conseguenza anche elevazione di una gamba. Benissimo. Anche in questo caso, pure se apparentemente non sembra, voi state effettuando un lavoro bilaterale. Perché in realtà con un emirato lavorate in stabilizzazione e con un altro lato lavorate elevazione. No, in isocinetica, ok? Poi da qua hai rialza alto, anche quello qui, no, più. Che cosa succede? Ecco, vedi lui che cosa ha fatto? Andrei subito a... Perfetto, ok. Questo è un altro accorgimento. In realtà, quali sono i muscoli maggiormente interessati in questa progressione? Gli obliqui, il tronco, molto. Ok? Quindi se volete lavorare sul tronco, o comunque quando vi suggeriscono di lavorare sul tronco, quindi sugli obliqui, dovete necessariamente utilizzare una progressione in decubito laterale, ok? se non riesce ad effettuare una progressione in questo decubito, difficilmente avrà recuperato il tronco, con tutto quello che poi succede quando c'è un deficit di questo tipo. Va bene? Ok, andiamo avanti. Allora, voi sempre partendo da questa posizione, senza guardare le parti inferiori, stacchi la parte, diciamo, dorso, tutta dorsale. Allora, dopo che cosa fai? E ti appoggi, penso tu. Allora, dopo devi andare in appoggio sul gomito. Lì non c'è scritto, però in realtà io vi consiglio di fare questo. Fare un passo indietro, date questo, poi, no, bene, poi fate questo e riducete la base d'appoggio. Ok? Poi, volendo, riestendiamo le ginocchia, perché in realtà già questa posizione è difficile. In questo caso potete lavorare anche sulla spalla, se vi serve aumentare il peso sulla spalla. Stai dritto? Ok. Poi stesso procedimento, stacchi questa e via. Staccando questo, allora un attimo, magari pure portando indietro, portando in avanti. Cambiano le cose. Ma non aumenta la difficoltà? Dipende su quali muscoli vuoi lavorare. Il compenso di solito è questo. Se ne va indietro col sedere e avanti con la gamba. Se invece riesci a tenerla dritta, hai un'estensione d'anca. Ok? Bene. Poi appoggio sulla mano. Lui ha fatto così, si è aiutato con questa, che okay, la progressione prevede questo, okay, che si aiuti con questo. Stesso discorso, posso fargli piegare le ginocchia, altrimenti le tengo estese. Successivamente mi faccio staccare il braccio, lo tengo dritto. Stai su dritto? Dritto. Poi può anche provocare il bacino. Bene, giù. Poi pieghiamo le ginocchia e facciamo questo. Il braccio va di qua, questa mano si stacca, questa mano si stacca e va di qua. Mi sto facendo la faccia da prendere. Bene, perfetto. Ok. Quando non riesci a fare questo movimento, fondamentalmente è perché c'è un deficit della muscolatura. Nel suo caso non è per quello. Ma quale potrebbe essere un'altra motivazione? Sta ridendo. Stavo ridendo. Sono corso, no? No, però fate serie. Una questione di equilibrio ancora. Che significa una questione di equilibrio? Che magari il paziente non è in grado di mantenere un determinato tipo di posture e posto in queste situazioni non è in grado di creare dei compensi che permettono di stare in equilibrio. No, e quello sarebbe legato al deficit muscolare. Quindi non è un deficit muscolare. Di forza, no? No. Allora, un problema strutturale di colonna potrebbe sicuramente essere influente. Sì. Io non c'è. Una scarsa mobilità. Mi date solo un minuto? Sì, sì. Meno. Oltre al problema strutturale di colonna, in realtà ci possono essere problemi con l'anca e problemi muscolari, di accorciamento muscolare. Ok? In realtà lui non ce la fa perché è troppo tonico, è un po' accorciato, un po' elastico. Capite? Allora che cosa si fa? Coccia, ma la smetti sempre di distruggere? Io lo so. Che devo fare? C'entrano gli strotti adesso. Fanno qui. Avete registrato questa ok, quindi che cosa succede? Allargo un po' la base d'appoggio, cioè allungo un po' i muscoli, eh? allargo leggerissimamente qua, ma poi qua tolgo tutto il resto, voi spettacolo per andare. Aspetta, se io allargo proprio proprio questo distacco che poi. No, ma questo io allargo. Ah, ok, scusa. Perché in realtà, in realtà è questo che dà il lento. Perché è troppo intradotato, quindi come lavoro proprietario vuoi andare a lavorare proprio sui muscoli che sono un pochino accorciati. Puoi andare a lavorare sui muscoli che sono accorciati, in questo caso quali? Probabilmente c'è un po' più. Magari gli extradotatori, perché in realtà quando vado in intra lui non mantiene la trazione. Ok? Quindi lavoro con lo stretching segmentario degli extradotatori. Potrei lavorare prima di tutto. Esatto, se hai le competenze sì. Qua non ho bisogno di competenze. No. Giuro, mi manca. Va bene. Sono se riesci a fare questo di sicuro ha una buona componente di tronco. Bene. Più o meno abbiamo fatto tutto per quanto riguarda le piramidi. C'è questo, però a lui sicuramente non le facciamo fare. questo è un po' di weight, ragazzi. Perché body weight? È più facile. Quindi è meglio rinforzare. Così atletico. Allora. Quindi l'ultima cosa, poi facciamo un piccolo break perché devo andare un attimo. Allora, il vantaggio che avevamo detto all'inizio dei passaggi posturali era quello, ce l'avevamo detto nell'altra lezione, era quello che ad ogni livello corrisponde poi un livello in un altro decubito. Ovvero una posizione può rappresentare la proiezione di un'altra posizione. Quindi un decubito laterale, sicuramente la posizione in appoggio sul gomito. Questa può essere riconducibile a questa, ok? In realtà questa è il ponte con una gamba sola, vi può far pensare alla quadrupedica in appoggio con una gamba sola. Facciamo come la sulle fici d'appoggio. Esatto, sì. Però in realtà quando un paziente, cioè tu quando è che puoi dire vabbè lo metti in quadrupedica e faccio fare quell'esercizio? Quando vuoi fare. Quando hai delle basi, la base per quel movimento può essere sicuramente questa. Infatti vedi, questa è una fascia di competenze che in quest'altra piramide è sicuramente più alta. Ok? E quindi in teoria se riesci a fare quella posizione può fare tutte. Se riesci a fare questa, quasi sicuramente può fare quella, a meno che non c'è. Non esista un problema sul lato superiore, ok? In qualsiasi posizione di stato quando mettiamo una cosa destabilizzante riesce a fare poi salto e corsa? Non arrivare subito, ah, non arrivare, ci arriviamo. Poi, se riesci a fare questo, se riesci a mantenere questa posizione, potrebbe in un certo senso anche andare in posizione a cavaliere servente. O comunque questa può rappresentare la base per arrivare a cavaliere servente, perché lavorate con un arto in catena cinetica aperta e con un arto in catena cinetica chiusa. Avete però l'appoggio delle spalle, quindi una volta che avete recuperato ulteriormente il carico sul bacino potete metterlo a cavaliere servente. Però dovete iniziare a inquadrare tutte queste posizioni come proiezioni di altre. Cioè nel senso, una volta che il paziente riesce a fare questo, non è che lo dovete mettere in piedi a camminare, lo dovete mettere in quadrupedica, successivamente lo dovete mettere a cavaliere servente. Oppure se riesce a fare il ponte in questo modo, successivamente lo potete mettere in quadrupedica, senza staccare niente, e poi lo mettete in ginocchio e vedete come carica. Però ecco, la corrispondenza è per tipo di posizione. La corrispondenza è per tipo di posizione. Io prendo l'omino, lo giro sotto sopra, quindi funziona. Cioè. Bravissimo. È quella cosa che fai con il computer quando prendi un'immagine. La giri, Ok, sono proiezioni differenti. Però in realtà dentro di una proiezione c'è sempre una competenza. Non è che corrisponde a? 3 minuti. No! Non è passato.